Brasil. La nostalgia è del Brasil. Brasil sta lì. L'Italia qui. Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. È stato per due anni Walter al Porto, di fatto vice Falcao, ha vinto l'Europa League, ma giocando pochino. Ha perso 10 kg l'ultima. Accolta la nostra nazionale, ovviamente i 15 giocatori nella metà campo nostra. Bruno. Diventa ad alta definizione per una migliore qualità dell'immagine. Mi senti? Mi senti? Sento ancora un differenza. Gulos, gulos. Che nelle due fasi, sia in fase non possesso che in quella di... Buonasera, ben trovati qui dallo studio di Saxa Rubens. Certo. Pochi impulsori che abbiamo fra i centrocampisti, tanti palleggiatori, no? Però di uno che vale nella cerca la profondità, certo. E segna con una certa... Allora, non so se rende il casino che abbiamo vissuto ieri sera, quando a un certo punto pensavo sarebbero spuntati... Vi ricordate i cartelli, quelli degli anni 70, con quegli scorci in bianco e nero di un Italia ormai dimenticato? In uno c'erano anche le pecore al pascolo sui colli romani, con la scritta sotto: le trasmissioni saranno riprese il più presto possibile. Vabbè, per Franco Piantanino, il nostro autore, voleva proporvi un montaggio di tutti i 5 gol azzurri ieri, peccato che qualcuno ce lo siamo perso. Mica male, eh? 800 24 00 24. Vi piace la sigla nuova in questa base? Molto brasileira, eh? Farà compagnia nel corso dei mondiali. Spedizione che è partita. Pardo, che invece a sorpresa è tornato, ma questa ve la racconto dopo. Intanto io sono pronto, anzi noi siamo tutti pronti all'assalto di quelli che, immobili e insigne, titolari ai mondiali. Perché basta una notte d'estate contro una squadra brasiliana che si concede in abbastanza la sciva per farci arrapare tutti. Non è tanto la mia idea questa, Immobile, Insigne, Santi subito contro l'Inghilterra, però voglio sentire la vostra opinione, ma soprattutto voglio sentire quella di Emiliano Mondonico. Ciao mister. Ciao e buon pomeriggio a tutti quanti. Sto innaffiando le ortensie. Ci vuole. Senti, ma questo caldo pazzesco, come te lo spieghi? Questo caldo pazzesco, meno male, dai. No, come meno male? Meno male, dai, cavoli, un po' di caldo. Noi che non siamo più giovanissimi, ci scalda un po' tutto quanto. Sì. Dai, il freddo ti rattrappisce, il freddo. Io non so se hai mai fatto una doccia gelata. Sacco di volte. Immaginati come proprio tutto quanto sembra più piccolo. Sì. Invece col caldo è chiaro che bene o male esplode, no? Dicono, tanto, o quel poco che hai. Emiliano, dicono che col caldo non si può giocare a pallone. Hanno inventato i giubbotti refrigeranti, tutte queste strutture, la casetta di Coverciano, che col caldo a pallone non si può giocare. Cioè, col caldo possono giocare solo quelli bravi. Bravissimo, ma grandi. Sì, perché quelli bravi non hanno bisogno di correre tanto. Perfetto. Il problema è quelli che per giocare devono correre tanto, che col caldo fanno più fatica. Sì. Poi c'è anche umidità, fanno ancora più fatica. Sì. E perciò devono prepararsi meglio. Per il resto penso che quelli che giocano sulla spiaggia di Copacabana, cioè non è che giochino in cima a Cervinia. Sì, esatto. E perciò diciamo, se uno è bravo, bene, parliamo di tecnica e lasciamo perdere tutto il resto. Esatto, la palla non suda. No, ma anche il piede deve essere sicuramente molto molto sensibile. Ecco perché ti dico, il caldo, il sangue circola meglio e perciò il piede ha più sensibilità. Certo. Non so se è vero, te l'ho buttata lì. Senti Emiliano, ti chiedo un attimo di pazienza, abbiamo il traffico, poi arriva anche Pardo che mi hanno detto è tornato in Italia, non so se l'hanno espulso dal paese o che cosa, no, stasera fa tiki-taka, quindi è tornato a sorpresa in Italia. ci colleghiamo con lui subito dopo il traffico, Emiliano Mondonico, cui chiederò naturalmente la sua formazione per l'Italia, anticipando che a me è quella che ha in testa Prandelli con tutti quei centrocampisti, proprio per i motivi di cui sopra, cioè che quelli bravi e tecnici patiscono di meno, a me non dispiace. Tutti convocati. Sì, diciamo che abbiamo visto delle cose interessanti. Abbiamo sicuramente dei giocatori un po'... Che succede? Dai, arriva qualche piccolo insulto dagli spalti, vabbè, proviamo a riprendere il filo del discorso. Stavamo dicendo che abbiamo visto delle cose interessanti, secondo me. I due ragazzi davanti hanno fatto molto bene, si muovono bene. Dobbiamo sicuramente avere più coraggio nell'andare a riconquistare palla più avanti, però la condizione è buona. Condizione buona, e quindi adesso questa settimana sarà improntata solo sul lavoro brillante. Questa è la Prandelli ieri sera, non so quali insulti, ma comunque, Emiliano Mondonico, la tua Italia. La mia Italia è quella di ieri sera, al contrario. Sarà impossibile cambiarne 10. Sì. Però prima abbiamo parlato sorridendo, scherzando del calcio, dell'umidità, perciò della grande fatica. Come vedi, io vedo un po' tutte le partite, finisce sempre con qualcuno che ha i crampi, perciò vuol dire che arrivano al limite proprio della prestanza fisica. E noi abbiamo la possibilità nell'ultima mezz'ora di capovolgere la partita con Cassano, sì. Anche se ieri sera, forse perché non c'era bisogno, non è stato il Cassano delle due precedenti partite, con Immobile, con Cerci, con Insigne, e perciò è chiaro che i 90 minuti devono essere vissuti un po' a spatti. Pronti via, ci vuole in campo il 4-1-4-1, perché è chiaro che subiremo sì. Il palleggio degli altri, subiremo magari anche la corsa degli altri, e allora ci vuole una squadra che tuteli il risultato. Poi tra il primo tempo e l'inizio del secondo noi facciamo bene, perché è chiaro che a furia di prendere un po' delle sberlette ci incavoliamo, uh-huh. E anche con quel tipo di squadra riusciamo a creare problemi agli avversari, e nell'ultima mezz'ora invece, quando tutti quanti sono stanchi morti, ecco la qualità. Esatto. Ecco la qualità, ed è chiaro che se gli altri non hanno la stessa contromossa, cioè di mettere in campo giocatori per parare un po' le nostre avanzate, noi con Cassano, con Immobile, con Insigne li possiamo stendere, Gerci, sì, è chiaro, sì, che li spacchiamo in mezzo, sì, perché noi tatticamente siamo i più bravi di tutti. E sai, questo disegno a me piace da morire, questo disegno, che credo sia anche quello che hai in testa Prandelli, che non so se sta giocando a nascondino, a pretattica, io credo che abbia in testa questo disegno, e a me piace tantissimo. Allora, Franco Piantanida, ci aggiorni su Pardo, dov'è Pardo? Oggi Jimmy Pardo Page è stato raggiunto telefonicamente ed incredibilmente sul sesto numero diverso su 6 giorni. Sì. Ma la location? Proprio lui! Proprio lui, Pardo, dici tu dove sei oggi? Oggi sono nella ridente Cologne Mongege. C'è gente che fa il pendolare, non so, Varese Milano, Pavia Milano. No, lui fa il pendolare Rio Milano, ragazzi. Cologne Mongege. Come stai? Tutto bene? Bene, molto bene. Quindi stasera tiki-taka, un po' di fullo. Mercoledì. 21:10 Italia 1, prima serata. Però non sei stato espulso dal paese, questo mi fa già piacere. Esatto. Ma sei venuto a prendere delle camicie, questa è la verità. E con questa me ne vado, ciao. Sono venuto a fare la piattarita, scatenato. Senti, hai sentito l'Italia di Emiliano Mondonico, che a me piace da morire? Beh, mi sembra che insomma sia in linea con quello che intesta anche Prandelli. È chiaro che la scelta di una punta sola è una scelta essenzialmente difensiva, è un modo per stare schisci, come dicono a Milano, per cercare prima di tutto di assestarsi in campo, e qualcosa concederemo. Credo che l'idea di Prandelli sia quella di concedere un possesso palla sterile agli avversari, e tenendo poi in mezzo le qualità ce l'abbiamo. Quindi no, mi piace molto l'idea, sono d'accordo con te, sono d'accordo con lui. È chiaro che sarebbe bello poter essere dominatori dal primo al 90esimo, no? Avere delle qualità tecniche tali per poter essere padroni del campo e padroni del fuoco, come direbbe Berlusconi, la sua storica frase. Proprio Berlusconi, sai che è arrivato, ha visto il comunicato ufficiale da due minuti? Sedorf esonerato, Pippo Inzaghi fino al giugno 2016, è stato reso noto ora sul sito del Milan, quindi questa vicenda dall'esito scontato ha trovato una conclusione ufficiale. Però tu sai, Emiliano, che adesso tutti vorrebbero Immobile al posto di Balotelli. Questa è la maggioranza, la corrente di maggioranza. Cioè, Immobile dà il meglio di se stesso quando gioca con due esterni offensivi. Balotelli, siccome tatticamente è abbastanza individualista, dà il meglio quando è da solo, là davanti contro tutti. Ecco perché pronti via si parte con Balotelli, che chiaramente dovrà fare un po' questo solo contro tutti con l'aiuto dei centrocampisti, e poi dopo subentrano invece quelli che sanno giocare al meglio in un'altra maniera. Cioè, sai, quando si parla di questo cambio di modulo durante la partita, che in Italia siamo bravi a cambiare modulo, in Italia siamo bravi a studiare l'avversario e a comportarci di conseguenza, cioè in realtà è quello che sta facendo Prandelli, quello che ha fatto Prandelli, quello di una squadra che chiaramente deve andare in campo per cercare di subire nella maniera giusta, e perciò è chiaro che c'è il discorso subiamo, però sappiamo come fare per far male, e poi dopo una squadra che invece con queste ripartenze, quando gli avversari si illudono di averci preso le misure, ecco quelli abili nelle ripartenze che trovano degli spazi enormi e che creano grandissimi problemi agli avversari. È questa la tattica dell'Italia. Questo catenaccio contropiede, che una volta era un po' il nostro gioco, in questo momento diventa lo specchietto per le allodole. Certo. Perché tutti pensano, con la squadra una sola punta, alla solita Italia che fa catenaccio e compagnia bella. Invece no. E allora ecco che loro vengono in campo pensando che la nostra squadra sia messa in campo solo per difendersi, solo per tutelarsi, e ogni tanto andiamo in attacco. E poi si trovano nell'ultima mezz'ora, che è dove conta, una squadra che invece fa tutto l'opposto, e questo può creare grandissimi problemi, perché gli altri non hanno la nostra abilità nel cambiare modo di giocare. Gli altri giocano sempre alla stessa maniera. Non hanno contromossa, ma anche l'Inghilterra risulta preoccupata, perché c'è Hodgson che sta pensando a come fermare Pirlo, già, per esempio. Questi allenatori che sono venuti in Italia, ecco, questi mi preoccupano. Sì, perché questi qualcosa hanno capito di quello che siamo noi. Non sono come quelli che abitano da altre parti e chiaramente dicono: ma questi qua che cosa vogliono, dove vanno e come vogliono. Sono questi che sono stati qui, che hanno pagato di tasca proprio il che hanno preso gli schiaffoni, qualcosa ha capito. Perché quando il Brasile ha vinto il mondiale era quando giocavano tutti i giocatori che giocavano in Italia. Certo. Ed è chiaro che hanno giocato i brasiliani alle italiane, allora diventa un casino. Sì, ricordiamo bene nel 94. Pierluigi, pensi che questa sia l'idea di Prandelli? E aggiungo, Prandelli ha secondo te già deciso, sta facendo pretattica o ancora non è convinto? No, io penso che sia l'idea di Prandelli. Non credo che Prandelli asseconderà, diciamo, questa linea di pensiero, questa corrente filosofica che c'è in questo momento nel paese. Dopo la partita di ieri ci sono ovviamente persone che vorrebbero Immobile, magari addirittura Insigne titolari, magari il 4-3-3, però io credo che lui la scelta l'abbia fatta e in qualche modo si è tradito, insomma, si fa per dire, nella conferenza stampa post Italia-Lussemburgo, quando ha detto che, a proposito dell'ingresso di Cassano, che in generale la squadra con due attaccanti ovviamente vede di più la porta avversaria, però concede qualcosa di più, perde un po' di equilibrio. E io e anche altri colleghi abbiamo interpretato quella dichiarazione come un implicito riconoscimento del fatto che lui si senta più protetto con cinque centrocampisti. Quindi io penso che la scelta sia questa. Semmai, secondo me, si incasina, diciamo, la lotta per chi entra, per chi entra a partita in corso, perché è chiaro che Cassano, che era la prima scelta, adesso ha due rivali un pochino più forti. Poi sai, il mondiale è un fatto di momento, no? Certo. Nel senso che va benissimo l'amichevole col Fluminense, ma poi poi cambia tutto, e allora lì abbiamo fortunatamente dei giocatori che con le loro giocate possono fare il sorpasso, possono ritagliarsi un ruolo diverso da quello di partenza. Sì, come diceva prima Emiliano, sono quelli fondamentali, perché sono quelli che magari ti fanno vincere la partita. Un'ultima cosa invece voglio chiedere al mister: non è che pigliamo un po' troppi gol, mister? E poi un'altra preoccupazione, vedo spesso in quel centrocampo che Prandelli ha piantumato, per usare una parola che ti piace, credo. In quel centrocampo così fitto vedo un po' troppi giocatori fuori ruolo. Per esempio Pirlo fuori dalla sua mattonella io non lo metterei. Allora, per quanto riguarda la prima ipotesi, io penso che l'infortunio di Montolivo, che chiaramente è stato un infortunio grave, perché Montolivo faceva parte del rombo di centrocampo che è stato un po' la sorpresa agli europei. Sì. Noi gli europei abbiamo messo in difficoltà tutti gli altri col rombo di centrocampo, ed è chiaro che Prandelli nella testa aveva l'idea di riproporlo. L'importazione di Montolivo non ci permette di avere un centrocampo come quello che avevamo agli europei, e la prima scelta se l'è conquistata Verratti. È chiaro che Verratti e Pirlo sono sempre stati un po' al centro del sistema squadra. In questo momento è chiaro che se uno aiuta l'altro, secondo me sul piano della qualità otteniamo da subito qualcosa in più. Nell'amichevole Pirlo ha aiutato Verratti, perché è giovane, è chiaro che non è stato in grado di aiutare Pirlo. Cioè aiutare vuol dire correre per il compagno. Pirlo ha corso un po' al margine del gioco per permettere a Verratti di impostare. Quando aveva la palla Pirlo, Verratti, invece di muoversi in funzione di un gioco sugli esterni, andava sempre a farsela dare nei piedi, e perciò è lì dove questi due ragazzi devono darsi una mano per aggiungere ancora più qualità. Perché se Hodgson dice bisogna andare a marcare Pirlo, è chiaro che Pirlo corre in funzione di Verratti, certo. E perciò vediamo un po' chi andrà al limite a limitare Verratti. Secondo me Prandelli ha delle alternative nuove, e queste alternative nuove permette a tutti, o obbliga tutti, a comportarsi nella maniera migliore. E guarda caso, ieri dopo tanto tempo abbiamo vinto un amichevole prima dei mondiali, perché tutti hanno dato qualcosa in più, perché sanno che in questo momento devono fare uno schema nuovo e sanno che devono dare qualcosa in più. E perciò io ti dico, sono stato dal Papa 3 giorni fa, sì, e di fronte a 50.000, 60.000 ragazzi del CSI. E quando mi è stata posta la domanda chi vince i mondiali, io ho detto l'Italia. Ma grande, ma infatti. Primo, perché dai, basta piangerci addosso, no, e di qui e di là. Finalmente. Vinciamo noi. Ma perché i brasiliani devono andare lì sempre a dire ma tanto vinciamo noi, ma tanto non c'è problema. Quarti di finale, al quarti di finale siamo contenti. Ma che contenti, quarti di finale siamo incazzati come le bestie. Dai. Assolutamente. E perciò è chiaro che io ho questa fiducia un po' in questi ragazzi, in Cesare, e un po' tutto quanto l'ambiente. Ho un po' meno fiducia in Pardo, perché non so che cosa ha pensato quando Cologno Monsese ha trovato lo stesso clima del Brasile. Magari lo stesso clima, magari. È peggio? No, ma in realtà lì si sta abbastanza bene, perché comunque è inverno, quindi ci sono 25 gradi, ci sono dei picchi di caldo ma assolutamente sopportabili. Allora il problema sarà in Amazzonia, ecco, in Amazzonia sono delle condizioni estreme invece, quindi quello può essere veramente una roba che ci manda i matti, però insomma anche gli inglesi immagino che avranno lo stesso problema, quindi speriamo bene. Grazie Emiliano. Grazie. A prestissimo. Saluto tutti, ciao Pardo. Pier, stai lì, Sì. A borsa. Questo è l'ultimo giorno di lavoro intenso, poi faremo un lavoro molto particolare e quindi arriveremo sicuramente molto preparati. Applausi per lui, pubblicità per noi. Tutti convocati. Tutti convocati. Buonasera, buonasera, che accenni che mi fa? lotta Immobile con Paletta, duello chissà anche mondiale, con Paletta che fa all'indietro regalando quasi il pallone Immobile, è bravissimo Mirante, la porta è vuota, Immobile, Ciro il grande, porta in vantaggio il Torino, sempre e comunque Immobile, parte Insigne, rete, rete, un gol pazzesco, Insigne fa impazzire il San Paolo. Acqua, il cross per Cassano che può controllare, Cassano, Cassano, due volte Antonio Cassano, il Parma va sul 2-0 a San Siro, ancora Cassano. Ora Balotelli, parte da lontano, pronto all'inserimento anche Muntari, Balotelli va in porta e trova un gol favoloso, il decimo del suo campionato, poi non esulta dalle lacrime di Napoli a questa esultanza rabbiosa di Mario Balotelli che risolve dalla grande distanza. Oggi Franco Piattarini ha scelto delle sonorità un po' vintage, in linea peraltro con la trasmissione di ieri sera della partita, come tutti abbiamo non visto. L'AC Milan comunica di aver esonerato l'allenatore Clarence Seedorf e di aver affidato la squadra a Filippo Inzaghi fino al giugno 2016, questo comunicato ufficiale diramato, uso anche una parola un po' vintage, dal Milan. E Luigi? Sì. Sei lì? Diramato, ti è piaciuto diramato? Molto, molto, molto. Ti rendi conto che adesso Mirko da Napoli e Marco da provincia di Ferrara ci dicono che deve giocare Immobile, devono giocare due di ieri sera? Adesso il dibattito, come direbbe Biscardi, è chi volete? Poi, volete Ciro Immobile o volete a Balotelli? Ma vai col televoto, sono arrivati 5 milioni di voti. Ma secondo te, Auriemma chi vuole? Secondo me Auriemma vuole... Deve giocare Insigne! Deve giocare Insigne, patrimonio dell'umanità! Allora, adesso, dove c'è Auriemma? Adesso glielo chiediamo, tra un po' lo chiamiamo. Ah, Raffaellina, sì. Mirko? Salve. Chi vuole? Grazie a lei per la convocazione. Grazie a lei. No, io vorrei solo divertirmi. Bravo. Quando vedo una partita. Sì. E non mi diverte l'Italia, a me, assolutamente. Poi vorrei ridimensionare un attimo Insigne, che... i due gol l'avrei fatto anche io, forse. Sì. Un po' di allenamento, quindi non è che ha fatto chissà che cosa. No, ma infatti sono diversi dei gol di ieri sera, gli sono stati propiziati da quella squadra lì, da Fluminense. Sarà anche secondo il campionato brasiliano, ma alcune cose veramente da vietato ai minori. Ecco, e da Fluminense poi in effetti quella mi ha divertito, sì. Se fosse ai punti potresti attribuire la vittoria così come avviene per la Bocca, paradossalmente insomma, l'Italia avrebbe perso anche questa partita, per quanto mi riguarda. Voglio dire soltanto che in effetti stavo pensando di cominciare a tifare Germania. Perché? Perché? Perché quella mi fa divertire. A Germania? Vedere giocare la Germania. Io faccio un parallelo tra il calcio e l'arte in genere, no? Sì. Noi anche Pardo lo fa sempre, ha ragione, ma è un parallelo corretto questo. Ecco, e allora io credo che noi siamo un po' troppo legati al risultato, a tutti i costi, vincere a tutti i costi. Sì, però se non vinciamo non ci divertiamo, punto. Quindi no, Pierluigi. Poi non sono d'accordo con il pessimismo cosmico che si. Cioè noi siamo. Abbiamo bisogno di sofferenza, e questo io non lo capisco. Infatti mi piace morire nel mondo che dice davanti al Papa: il mondiale lo vinciamo noi. Sì, io penso che senza sembrare appunto esagerati, però un po' di petto gonfio in fuori ci vuole, perché comunque siamo l'Italia e calcisticamente siamo il secondo paese con più mondiali vinti, siamo vice campione d'Europa, abbiamo delle qualità, io credo che sinceramente per me noi siamo al sesto posto del ranking, della mia classifica del mondiale, dietro, secondo me dietro a Spagna, Brasile, Germania, Argentina e Francia, sì. Però insomma col sesto posto si può vincere il mondiale, sì. Quando l'abbiamo vinto nell'82 eravamo una squadra con mille problemi, nel 2006 avevamo certamente dei grandi campioni, ma anche lì tutta una serie di difficoltà, ma se anche quello, Pier, la distanza tra la prima e la sesta non mi sembra ma non è clamorosa, ma noi possiamo in qualsiasi partita ce la giochiamo con chiunque, possiamo uscire, la verità è che possiamo uscire avendo un girone complicato, possiamo uscire nella prima fase in questo ballottaggio a tre e possiamo però secondo me anche arrivare fino in fondo, certo certo, ci deve andare tutto bene, si deve creare una musica, una magia, un'energia collettiva di gruppo che probabilmente non c'è ancora, ma non è che l'Inghilterra che ha fatto 0-0 con l'Honduras o il Brasile che ha vinto 1-0 con un gol bellissimo di Preagi in questo momento sia una squadra perfetta. Adesso sono tutte chiacchiere, tutto precampionato, è tutta pre-season. Sì. Adesso arriva e lì ti servono i grandi giocatori e ti serve una forza di squadra che speriamo di riuscire a avere. Però è pazzesco come in pre-season noi siamo lì cupi a soffrire e a temere qualunque cosa e chiunque. Ci sono altri che la vivono in un'altra maniera e io un po' li invidio, cioè, o meglio, io la penso un po' come quegli altri. Meglio sorriso l'ottimismo rispetto al pessimismo più cupo. Marco, buongiorno. Buongiorno, grazie della convocazione, la saluto e un saluto al simpaticissimo Pardo. Grazie. No, niente, io non le dirò che vorrei che giocassero Insigne e Immobile, però dico che Prandelli è in una bella botte di ferro adesso, dopo la partita di ieri sera. Solo che c'ha 40 milioni di commissari tecnici che siamo noi italiani, i frequentatori dei bar, che siamo pronti ad accendergli il fuoco sotto nel caso che, cioè, dovesse fare scelte sbagliate. Ma io a questo punto credo che se il mister Mondonico prima sia stato di una chiarezza, cioè, il gioco che deve fare Prandelli è quello lì. Adesso io Insigne Immobile ieri sera non so se il Fluminense fosse una squadra valida o non valida. Sono venuti i gol, speriamo che comunque le cartucce non le abbia sparate tutte ieri sera, ecco, tutto lì. Certo che Prandelli adesso si trova un bel problema, un bel dilemma. Sì, ma averne di problemi di questo tipo credo che sia quello che Prandelli sta cercando, in attacco come a centrocampo. L'unica mia preoccupazione è la difesa. Beh, l'ha detto anche Iellini in conferenza stampa l'altro ieri, ormai io ho un po' di fatica col fuso orario sui giorni, mi sembra fosse l'altro ieri. Insomma, quell'intensità che sempre aveva in qualche modo rappresentato la nostra nazionale negli anni si è persa. Adesso ieri sicuramente ci sono le seconde linee, no? C'è l'attenuante delle seconde linee che hanno preso i primi due gol, però insomma mi sembra che la fase difensiva non sia quella dei tempi, dei tempi migliori, e credo che questo poi alla fine più di ogni altra cosa sarà il motivo per il quale Prandelli sceglierà una sola punta contro l'Inghilterra, perché credo che abbia bisogno di tanta densità in mezzo, perché in questo momento non si fida molto e quindi penso che partirà con 5 centrocampisti. Sì. Traffico, poi torniamo. Intanto sto leggendo dei pupazzoni che si sono a Copacabana, pupazzoni di alti 2 metri, cioè Balotelli, Messi, Neymar, Pelé, Scolari e tra gli altri pure Papa Francesco. Pensa un po'. Sul discorso della difesa è vero, è una cosa che ne abbiamo parlato anche fra di noi, e sicuramente è un aspetto da migliorare. Credo che sia limitativo parlare di difesa in sé, perché come quando non prende i gol non sono certo i difensori basta che aiutano, ma è proprio la fase difensiva della squadra che secondo me ha perso un po' di intensità e distanze durante i 90 minuti. Tutti convocati. Voglio leggere questo messaggio di Roberto Dalodi. Vorrei attraverso la sua voce complimentarmi con la società Torino Football Club, prima squadra in Europa, primavera e finale scudetto, Berretti campione d'Italia con la prima e unica stella della categoria. Grazie Toro, Roberto Dalodi. Anno magico per il Toro, che rischia, Pier, di avere 3 titolari in questa nazionale, perché Immobile va bene, Cerci comunque è un giocatore importante, ma soprattutto secondo me potremmo, la vera sorpresa già dall'esordio potrebbe essere Darmian, perché Abate non convince, potremmo vedere De Sciglio alla Seedorf, cioè a destra. Sì, io sono d'accordo, e sono d'accordo anche sull'annata meravigliosa del Torino. Mi è venuto in mente quello che mi ha sempre detto il mio amico Cravero, che in quegli anni lì, quindi parliamo di fine anni 80, inizio anni 90, era abbastanza facile arrivare in Serie A, Serie del vivaio del Toro, perché c'era una qualità del vivaio, degli allenatori, di tutta l'area tecnica veramente incredibile. Mi sembra che insomma, il Torino stia tornando su quei livelli lì. quindi la stagione è eccezionale a ogni livello, eccezionale dal punto di vista dei giovani valorizzati che vanno in nazionale, ma eccezionale anche dal punto di vista, diciamo, della base e dei ragazzi che a livello di Beretti di primavera nei prossimi anni troveremo invece in Serie A. Quindi questo è molto lusinghiero e molto positivo per il Torino, e credo che si debba fare i complimenti. Insomma, qualche giorno fa, forse era domenica, avevamo Cairo in collegamento telefonico. Che giorno è oggi? Sì, perché ero a Fiumicino, mi ricordo benissimo. Oggi che giorno è? Oggi è lunedì. Bravo. Oggi è lunedì 9 e sono le 14.49 in Italia, le 9.49. Sei meraviglioso. Ecco, grazie. Invece l'1 giugno, il primo giugno, intorno alle ore 18.20, sì, italiana, è intervenuto Urbano Cairo, che insomma non, io l'ho un po' provocato dicendo se si in qualche modo considerasse una specie di rivincita per lui questa stagione, e lui ha detto assolutamente di no. Però io credo che invece quello che ha fatto quest'anno, insomma, secondo me qualche tifoso che è stato negativo nei suoi confronti, ecco, quest'anno credo invece debba riconoscere che ha fatto un lavoro. Ma stai scherzando? Ma secondo me Cairo non lo dice, ma gode come un riccio, perché è sì una rivincita, ma tu ti ricordi anche soltanto la scorsa estate, tutto quel casino che era venuto fuori per il mercato del Toro e per Maresca e per tutte queste. In molti stessi tifosi del Toro dicevano: quest'anno non so se ci salviamo, guarda che stagione che ha fatto, quindi gode come un riccio Cairo. E ha ragione. Antonio Prato, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Senta, io sono un gran tifoso dell'Italia, non sono certo uno dei tanti CT sparsi per l'Italia, anche perché sono, diciamo, autodidatta, diciamo, sì. Mi piace vedere il calcio e basta. Quindi? Una cosa non mi va più: quando vedo giocare l'Italia, spero che lei, è una curiosità mia, spero che lei sappia rispondermi, e quando incomincia a fare i passaggi indietro, anche ieri sera ho visto dalla porta loro sono tornati al portiere e incominciano a fare quei passaggi orizzontali, sì, che poi alla fine perdono anche la palla. Ma è strategia quella lì, oppure allora, no, la questione palle perse è reale, quanto a tutto il resto per come gioca il Barcellona, cioè, ma dico, non voglio fare nessun tipo di paragone che sarebbe una sciocchezza, però come gioca il Barcellona col possesso di palla, arrivano al portiere tornando dall'altra parte, insomma, non è che passare indietro la palla nel 2014 sia qualcosa di censurabile. Ma sì, infatti non è che c'è una, non è contro il codice etico, diciamo. Non è contro il codice etico. No, ma ci sono tanti strumenti diversi, tante tecniche diverse per arrivare al risultato, dai. Io credo che su questo non ci siano dubbi. E poi noi ci innamoriamo ovviamente in certi momenti di tendenze, di logiche, poi ci sono anche i calciatori che con la loro qualità, ci sono i calciatori e ci sono anche gli episodi, perché poi nelle competizioni come la Champions League o come il Mondiale la differenza la fanno gli episodi. Io penso sinceramente che noi meritassimo di più per la partita che abbiamo giocato di vincere l'Europeo con Zoff rispetto al Mondiale, no, Italia-Francia. Sì, sì. Secondo me meritavamo più nel 2000 che nel 2006, se tu guardi la partita, sì, e la qualità del gioco. E invece nel 2000 abbiamo perso e nel 2006 abbiamo vinto. Sì. Ancelotti ha perso delle finali di Champions League, come ricordavamo l'altro giorno, ha perso quella dove è stato nettamente superiore all'avversario, quella incredibile di Istanbul, e invece ha vinto delle altre partite certamente più equilibrate, ha vinto incredibilmente anche quest'ultima contro l'Atletico Madrid. Quindi non bisogna mai dimenticarsi di questa da qui. Poi il retropassaggio, secondo me, insomma, ci può stare. Può avere il suo perché. Sì, ma insomma, certo. Andrea da Milano, poi salutiamo Pardo, no? Andrea da Milano è cascato. Senti, volevo dirti il retropassaggio, scusami, a proposito di Ventura, no? Parlavamo del Torino. Ventura anche ai tempi di Bari faceva il retropassaggio al portiere per aprire la difesa avversaria, e quindi era quasi uno strumento offensivo quel retropassaggio. Li fai salire, ma anche questi il palleggio insistito, i continui cambi di fronte che ovviamente passano attraverso i difensori centrali è qualcosa di abituale, di normale. Senti, in un minuto, mentre sto guardando le pupazzone di Balotelli eccetera eccetera, quei fischi di ieri sera a Thiago Motta da parte della torcida brasileira, come l'interpreti? È che ognuno deve scegliere dei motivi, cioè il tifoso giustamente si vuole sentire protagonista e quindi poi alla fine sceglie Balotelli come uno, no, uno di loro e sì. Decide che gli fa simpatia, e Thiago Motta invece decide che gli fa antipatia perché è un brasiliano che gioca con la maglia della nazionale italiana. Insomma, non oso immaginare cosa potrà succedere per Diego Costa da questo punto di vista, ma lì la questione è nettamente più polemica. A me sembra anche in questi giorni brasiliani che ho passato che ci sia grande simpatia nei confronti della nostra squadra. Alla fine noi siamo un popolo simpatico, grandissime linee, forse non ci conoscono bene, scherzo. li freghiamo, a parte le battute. Ho la sensazione anche dall'esperienza della Confederations Cup dell'anno scorso che troveremo spesso un clima favorevole, quindi cioè, questo è positivo, e questo è qualcosa da mantenere, da conservare, da custodire, da coltivare. Grazie Pier. Ciao, un abbraccio. Ci fermiamo per Bet Corner, poi GR e poi abbiamo un ospite che vedo già di là dal vetro. Preparatevi, a dopo. Quote e pronostici. Questa è la settimana dei mondiali di Brasile 2014 che scattano giovedì alle 22 ore italiana con la sfida dell'Arena Corinthians di San Paolo tra il Brasile, padrone di casa, e la Croazia. Vediamo dunque, secondo SNAI, quelle che sono le quote per la vincitrice finale a pochi giorni dall'inizio del mondiale. Brasile favorito e quotato 3,75. Interessante anche la quota di un'altra sudamericana, l'Argentina quotata 5, Germania quotata 6,50, Spagna invece quotata 7. Più alte le quote per quanto riguarda l'Italia e un outsider come il Belgio, squadra formata da molti giovani e quotata come gli azzurri 20, Francia e Portogallo sono quotati 28, l'Inghilterra e l'Uruguay che saranno compagni di girone dell'Italia sono quotate 30, l'Olanda infine è quotata 35. Alle 20:30 invece, per quanto riguarda il basket, scendono in campo Sassari e Milano con la serie ferma sul 3-2 a favore dei Lombardi. L'1, la vittoria di Sassari, è quotata 3,15, l'X è quotato 2,45, il 2, cioè il successo di Milano che chiuderebbe così la serie e volerebbe in finale, è quotato 2,75. Questa era l'ultima delle quote di oggi. Noi ci risentiamo domani. Tutti convocati. Un saluto a tutti da Sandro Piccinini. È tutto pronto ormai. Tra poco si parte con una canzone eccezionale sui mondiali di Daniele Brogna. Proprio lui, l'uomo dell'anno. Attenzione, l'attesa è finita, si comincia. Penso al 2006, chissà cosa darei, ma per rivincere io penso che serve un culo così grande. Mica male, eh? Ben chiaro che col cuore è inutile star lì, cioè se c'è un gioco, perché è un gioco che dipende dalle stelle, se vogliamo dire stelle, questo è il pallone. La risata che sentite è quella di un mio idolo assoluto, perché vi devo raccontare questo. Allora, io oggi intanto prendo 6,5. Spese e ansie agitano l'incipit della settimana, pomeriggio invece di spunti e aiuti utili, creatività super, dirompenze sudombelicali. L'ultima parte non saprei, ma quanto al resto ci conto molto, caro Antonio Capitani. Buongiorno. Allora, io ti dico, io faccio diventare matti tutti con il tuo oroscopo sulla Gazzetta. Cioè, non sono un gran lettore di oroscopo. Sei uno stalker, sei. Sì, io convoco. Allora, ragazzi, tutti qua c'è l'oroscopo. Che segno sei tu? Vergine, 3,5. No, ho detto 3,5 non lo do mai, però. Sì, ma guarda, questa storia del voto, devo dire che è particolarmente seguita. Al di là del pronostico, c'è sempre la pagella che viene letta e si fa anche a gara chi piglia il voto più alto. Certo, so di gruppi, il più basso. O il più basso. So di gruppi d'ascolto che lo fanno. Sì. Mi chiedo perché, ma comunque lo fanno. Quando c'è umore sfigo pendulo, io divento matto. Ma sappiamo che il calcio è il gioco più legato alle stelle in assoluto. Cioè, io sono fermamente convinto di quanto ho detto. Beh, sì. No? Sì, beh, ci sono comunque dei segni zodiacali che in linea molto teorica sarebbero più portati per alcuni ruoli in campo e meno portati per altri, quindi si potrebbe anche costruire una formazione astrocalcistica assegnando, perché no, ogni giocatore il proprio ruolo in base proprio al segno sotto il quale è nato. Ti ricordi cosa diceva Napoleone? I generali li scelgo per, in base alla loro fortuna, sì, in base ai loro astri. Allora facciamo un po' di oroscopo mondiale, così scopriamo subito. Questo vale anche per i nostri amici che scommettono, perché ci sono, possono anche farsi tutti i loro viaggi mentali su questo. Andiamo a vedere un po' di segni e un po' di giocatori, vai, insieme, eh? 800 24 00 24, ovviamente i nostri ascoltatori possono intervenire, dire tutto quello che gli pare e magari chiedere anche qualche cosa ad Antonio Capitani. Io vedo su, vado in ordine, bilancia, sì, abbiamo De Sciglio, Diego Costa gioca centravanti della Spagna e Özil, stella, sì, tedesca. Come andranno? Ma guarda, la bilancia in questo periodo ha Marte nel segno. Marte è proprio il pianeta della forza muscolare, Marte è il pianeta dello slancio anche volitivo, quindi le bilance in generale, quindi non soltanto questi signori che hai appena nominato, hanno un argento vivo addosso, un brio, una forza che non è affatto da trascurare, quindi sono proprio i centravanti di sfondamento per certi versi, quelli che possono dare molto anche in termini di scatto, di resa, forse non prolungata, la resistenza potrebbe non essere delle migliori, però lo scatto momentaneo potrebbe essere quello giusto, quello vincente. Poi c'è un segno che mi intriga perché è il segno dei campioni, ce ne sono tanti che sono nati sotto l'acquario: Buffon, Parolo, Paletta per quanto riguarda gli azzurri, ma poi c'è Suarez dell'Uruguay, c'è Cavani, grande centravanti dell'Uruguay, Cristiano Ronaldo, Neymar, insomma, sono tutti degli acquari. Sono bravi, ma sai, l'acquario è il segno, l'Archimede pitagorico dello zodiaco, no? Quindi è similgeniale, ha un'intelligenza che spesso non trova pari nei nati degli altri segni. L'acquario ha anche un po' di faccia di glutei, quindi mettici insieme la faccia di glutei, mettici l'intelligenza, la genialità, la lampadina che si accende, sono i fantasisti, sono quelli che intuiscono con un nanosecondo di anticipo la mossa dell'avversario e magari la prevengono o la sfruttano a proprio vantaggio, come fa l'acquario. L'acquario, sì, è il senso dell'opportunità fatto persona. Senti, quindi, nel mese che ci aspetta, cioè, c'è un segno favorito nel mese che va da giovedì, quindi dal 14 fino a 12, guarda, io direi di luglio. Che più che favorito, direi che forse la triade di segni più dinamica, più energica, è quella composta dai segni d'aria: gemelli, bilancia e acquario, proprio perché c'è tutto un insieme di configurazioni astrologiche che rendono questi tre segni, come ti dicevo, dotati non soltanto di forza fisica ma anche di lucidità mentale. Sono degli strateghi e secondo me possono riservare delle sorprese, niente male. Hanno l'agilità proprio. Sì, l'agilità. Quindi, bilancio mentale, Diego Costa, Özil, acquario, poi gli acquari abbiamo già visto, e poi ci sono i gemelli. I gemelli sono Insigne, Gervinho, Klose, Mandzukic e Honda. Non male, quindi potremmo puntare su di loro. Insigne, tra l'altro, uno dei giocatori più chiacchierati. Ieri abbiamo visto segnare due gol, molti lo vorrebbero in squadra, eccetera, sì, eccetera. Sì. Ma il mio Pesci, Immobile, Candreva, Pogba, Drogba, non siamo male, eh. No, diciamo che là dove non dovesse essere sufficiente la prontezza di riflessi, compresa quella mentale, potrebbe esserci la fortuna che interverrà a favore del Pesci e quindi si può salvare capre e cavoli, insomma. Ripeto, il Pesci forse in questo momento sì, è fortunato, ma su altri piani. Magari economico, magari lavorativo in senso lato, anche sentimentale. Si può anche riprodurre il Pesci se vuole in questo periodo. Sul piano calcistico forse manca un po' di, ripeto, di rapidità di riflessi, di lucidità mentale, anche forse di scarsa volontà di lavorare in team, forse più propenso all'individualismo che non al gioco di squadra il Pesci. Quindi il nostro saremo CT, a vedere. Saremo a vedere, il nostro CT è un leone, Prandelli, ma sono leone anche Chiellini, De Rossi, Cerci e Balotelli. Già. Attenzione, questo è il segno chiave della nostra spedizione mondiale. Il leone non è male, il leone è stratega in questo mese, il leone sa sfruttare l'opportunità al momento giusto, nel caso poi del CT secondo me sa anche mettere insieme la compagine giusta, quindi io credo che nell'insieme ci siano sponsor astrali particolarmente preziosi anche per il leone, che forse vivrà un momento di maggiore fortuna, di espansione, di successo e di trionfo a partire dal 16 luglio a mondiali conclusi, ma chi ci dice che non sarà perché in quel momento tutti festeggeranno l'allenatore che ha compiuto la grande impresa, non lo dico ad alta voce perché sì, poi è meglio di no. Sì. Però il Leone, dai, no, non va male assolutamente. Va male. Proprio perché ci sono queste stelle che danno tanta carica, tanta grinta, e soprattutto c'è la testa che funziona bene. Poi il flesso mentale. La finale mondiale si gioca in un giorno strano, il 13. Il 13? Beh, basta che non sia venerdì. No, è domenica. È domenica, allora. Quindi va appunto bene, nessun problema. Questo, no, sfideremo la cabala, dai. C'è Marco che mi scrive, io sono dello Scorpione, me lo passano il mutuo. Non lo so, Marco. Perché poi guarda, quando parli di astrologia, o si scatenano queste cose o gli insulti. Sì. Perché poi arriveranno anche gli insulti. Ma, noi... ma se arrivano, gli scateniamo? Saturno contro. Sultano, noi siamo qui, 800240024, invece Dario Ricci è in Brasile, il nostro inviato laggiù. Ciao Dario. Ciao a tutti, Carlo. Che segno sei tu? Io sono Pesci, 17 marzo. Come me. Stesso giorno del trap, tra l'altro, eh? Ah sì, stesso giorno del trap. Sì, stesso giorno, anche di Recoba, perché non so. Recoba meno bene. Ma se, Italia che si sta per allenare, no? No, infatti questa è un po' la notizia in realtà che è diffusa nella notte, l'allenamento mattutino che sarebbe stato comunque molto leggero è saltato perché comunque ritornare da Volta Redonda in pullman è stato faticoso per noi, ma anche evidentemente per gli azzurri, per cui come ha spiegato Prandelli si entra da oggi in una fase di rifinitura della preparazione, il lavoro fisico è stato fatto, quindi si è preferito passare la mattinata tra massaggi, riposo, anche per smaltire questa trasferta complicata, perché comunque farci due ore di pullman qui in Brasile è sempre una bella scommessa, ecco. Comunque niente di nessun problema è uscito dalla partita di ieri sera, no? Dal punto di vista fisico, che tu sappia. No, direi che dal punto di vista fisico no, ci sono stati un paio di botte, di bei calcetti, visto che comunque il Fluminense non l'ha presa troppo sull'amichevole, ce n'erano 16-18 mila di spettatori tutto in rigorosa maglietta rosso-verde, quindi i giocatori brasiliani l'hanno presa abbastanza sul serio per quello che poteva essere, quindi un paio di botte l'hanno prese soprattutto visto Cassano e Balotelli, ma poi tutto sommato sono andati bene. Tra l'altro sotto mano anche le pagelle degli azzurri date da Uglobo, vai un po', questa... vai, dimmi. Allora, Perin 3, chiaramente sì, promessa con punto interrogativo, no? Perché sì, l'errore è stato evidente. Poi c'è, di curioso, c'è questo errore che fanno i colleghi di Uglobo, perché confondono Cassano con Insigne, cioè danno due gol a Insigne, dice due gol da opportunista, però pure Cassano che prende 7,5 come Insigne gli danno due gol di opportunismo, quindi insomma o rivediamo il tabellino. Mentre invece Immobile è definito artiglieiro con uno splendido 9, 3 gol e multa Movi Mansao, quindi Balotelli 5,5, allenamento leggero, Cerci 5, in effetti insieme a Paletta 4,5 forse sono state le note più negative, insieme anche ad Abate, devo dire che questi tre forse sono stati quelli che almeno personalmente mi hanno sì, convinto meno. Da quel punto di vista lì ci hanno visto giusto. Da quel punto di vista lì ci hanno visto giusto. Sì. Hai parlato ieri sera con Lorenzo Insigne, con Ciro Immobile, sentiamo Insigne prima. Oggi abbiamo fatto una grande partita, tutta la squadra uniti insieme, è stata una bella partita e siamo tutti a disposizione del mister, le scelte aspettano a lui. Primo tempo però qualcosina non ha funzionato, gambe pesanti oppure anche dal punto di vista tattico c'era qualcosa da registrare? No, abbiamo fatto, non penso che abbiamo giocato male perché due gol abbiamo fatto. Abbiamo fatto qualche piccolo errore individuale, però abbiamo risolto parlando con il mister e poi il secondo tempo abbiamo dato il massimo. No, sicuramente è una emozione bellissima, però ora dobbiamo pensare alla prima partita del mondiale contro l'Inghilterra e poi continuiamo a lavorare in queste settimane. Pure gli inglesi hanno fatto fatica ieri, che Inghilterra ti aspetta? No, l'Inghilterra la sappiamo tutti, è una grande squadra, noi dobbiamo stare concentrati sulle nostre potenzialità e scendere in campo con la mentalità giusta. Antonio Capitani, tu faresti giocare Immobile e Insigne nella nazionale italiana o no? Sì, secondo me sì, anche se Fra i due forse Insigne dal punto di vista astrologico è piazzato un po' meglio. Piazzato un po' sì. meglio. Dal punto di vista tattico invece tattico io vedo meglio quell'altro. Ma non so, come se io devo basare, io faccio il mio mestiere, no? Vabbè, sta claro. Devo dire che Insigne, visto che appartiene al gruppetto della triade che abbiamo detto prima, quindi dei segni d'aria che sono più dinamici e favoriti, soprattutto lavorando poi sulle fasce, io credo che i Gemelli possa riservare delle belle sorprese a questo campionato del mondo. E quindi occhio a Insigne. Sentiamo invece Immobile, sempre con Dario Ricci. Bene, dai, oggi era un test importante, dovevamo fare bene, soprattutto dal punto di vista atletico, fisico, perché adesso viene il bello, adesso si inizia a fare per davvero, quindi speriamo bene. Sei pronto per una maglia da titolare? No, ma sono cose che decide il mister, io sto facendo il mio per farmi trovare pronto sempre. Cioè, il primo gol era un po' emozionato, poi addirittura tre e ancora di più. Il mister fa le sue scelte, decide lui chi far giocare, noi dobbiamo dare solo il nostro contributo, poi se è dalla panchina o dall'inizio dobbiamo dare il massimo. Che Italia dobbiamo aspettarci a Manaus, Ciro? Stiamo lavorando per fare bene e per fare grandi cose. Indossare già la maglia della nazionale è un sogno, poi farlo in un mondiale ancora di più. Sto lavorando, come ho detto prima, per dare il massimo. Se ci sarà l'occasione saprò farmi trovare pronto. Insomma, stiamo lavorando per voi. Questo era Ciro Immobile con Dario Ricci, collegato con noi dal Brasile. Antonio Capitani qui con me in studio, Stefano Dabare, un ascoltatore. 800 24 00 24 è il vostro numero. Stefano, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi convocato. Diciamo per un argomento leggermente diverso, volevo parlare della partita dei playoff di ieri, Bari Latina. Sì. Al di là dello stadio, di tutto quello che c'è, dell'entusiasmo, di una città che ha ritrovato la voglia di vedere una partita di calcio. Siamo un po' preoccupati qui a Bari, perché Gianluca Paparesta, che sta facendo un mezzo miracolo, non vorremmo che sia entrato in rotta di collisione con la sua ex categoria, perché quello che è successo nelle ultime partite ci lascia molto preoccupati. Cioè, al di là di quello che era già successo con il Novara sull'1-1, al Bari era stato negato un calcio di rigore clamoroso. Ieri la partita non ci è piaciuta per niente come è stata arbitrata. Cioè, al di là del gol, del primo gol che tutti avete visto, la cosa grave è che c'è stato un fallo a centrocampo di Cottafava, non da rosso, da tre volte rosso e da quattro giornate di squalifica. Sì, però Stefano, io non credo che non sia stato un grande arbitraggio quello di ieri sera. Sono d'accordo su tutto il resto, cioè Paparesta in conflitto con la sua ex classe, cioè quella degli arbitri, eccetera. A questa dietrologia credo molto di meno, quindi lo stesso Bari ieri con un sacco di, insomma, questi hanno un sacco di pressione sulle spalle, hanno lo stadio pieno che da un certo punto di vista è adrenalina pura, da un altro punto di vista io credo che possano cominciare a sentire la pressione, perché questo è il momento in cui sentono la pressione. Era benzina quando si trattava di rincorrere, adesso quello stadio pieno potrebbe influenzare questi giocatori. Questo è un altro fattore, insieme a qualche svista arbitrale, insieme a una prestazione non perfetta del Bari di ieri. Mettiamo tutto nel conto e adesso diventa abbastanza difficile, perché il Bari deve andare a vincere la Latina. Però io credo che, insomma, per il calcio italiano aver recuperato una piazza come Bari sia fondamentale, e l'idea di avere in Serie A una piazza come Bari sarebbe non male. Giuseppe Parma, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Che segno è lei? Eh? Che segno è zodiacale? Della Vergine. Vergine? Come sì. Antonio Capitani. Beh, la Vergine, dietro questo nome così usurpato, nasconde una natura particolarmente pepata e ormonata, quindi alla faccia del nome. È vero, Giuseppe? È vero. Volevo dire due piccole cose. Dica. Allora, io faccio parte di quei signori ottimisti, cioè io mi sono giocato la finale nei mondiali, lei che dice? Ha fatto benissimo, ma guarda, io la penso come Mondonico di prima, come tutti quelli che professano ottimismo. Io sono stufo di vivere nel pessimismo più cupo, nel porta sfiga. E poi vorrei dire una piccola sfiga, cosa a quel signore poi. Quel signore che vuole tifare la Germania, sì, gli pago qualche biglietto, che se ne vada in Germania. che se ne vada in Germania. Sì, perché siamo stupidi questi pessimisti che c'è in giro. Sì, siamo tutti anche del tifo contro, queste cose qui. Vabbè, pagare il biglietto per la Germania è un po' tanta roba, però quello che dico io è che ad ogni grande manifestazione ci avviciniamo con una cappa di... insomma, abbiamo bisogno di essere preoccupati. Antonio Capitani, ma perché abbiamo sempre bisogno di soffrire? Soprattutto quanto... cioè, siamo gioiosi in molti aspetti della vita, sul calcio invece abbiamo bisogno del patimento. Ma questo è un quesito cosmico che tu mi poni. Nel calcio e nell'amore abbiamo bisogno di patire come cani. Ma non so, forse perché la natura umana è orientata più al principio della cupezza che a quello del piacere, ora non so. Però è un po' di ottimismo anche... Sai che cosa? Non è sufficiente pensare positivo, occorre sentire positivo, che è quello che porta davvero la fortuna e le cose belle. Fare i pessimisti vuol dire portarsi a casa carrettate di sfiga. Ma come no? Mandiamolo dalla Merkel, davvero. Dario Ricci invece è ottimista anche lui, no? Sì, scusate, c'è stato un ritorno particolare, l'ottimismo. Sì, io sono ottimista, assolutamente, anche perché ci giochiamo tutto a Manaus per questo mondiale, secondo me, perché le altre due, come lo sapete, come la penso, non saranno neppure partite di calcio, si giocano in ore in cui neanche i brasiliani vanno al mare perché fa troppo caldo. Quindi l'unica partita buona è quella di Manaus, meglio vincerla subito, e le altre vediamo se avremo abbastanza fiato. Dario, quindi per questo sono ottimista. Qual è il piano partita per oggi e per i prossimi giorni? Quindi oggi non si fa allenamento, contrariamente a quanto previsto, cosa c'è in scaletta? Beh, oggi è interessante perché alle 13.30 locali, le 18.30 italiane, facciamo il punto con Cesare Prandelli in conferenza stampa, quindi è importante tirare le fila dopo quest'ultima sgambata, e poi si proseguirà, diciamo, con questo ritmo di allenamenti mattutini e poi pomeridiani, con incontro, diciamo, con i giocatori verso l'ora di pranzo locale, fino praticamente alla vigilia della partenza di Manaus, che si parte il 13. Quindi, insomma, diciamo, andiamo a ritmo serrato fino a fine settimana, che è poi l'appuntamento clou. Ci aspetta, Carlo. Ecco. Sì. Dimmi un'ultima cosa: c'è ancora il sommergibile che pattuglia la spiaggia del ritiro italiano? Quello, ragazzi, è stata una storia fantastica, perché in realtà questo sommergibile non è mai esistito. Mi dispiace magari darvi questa delusione, ma erano semplicemente delle chiasse che vengono poste qui per l'attracco di delle imbarcazioni, che hanno una specie di alcuni ganci che fuoriescono e che da lontano danno l'idea del sommergibile. Io adesso non penso che per la difesa, io sono qua circondato da poliziotti, dall'altro all'ingresso del tiro di Mangaratipa, che mi guardano pure male perché sono parcheggiato qua, quindi insomma effettivamente la polizia c'è, ma io non penso che arriveremo a usare i Patriots per difendere questo ritiro. Di certo che confondere chiatte di ormeggio per sommergibili è molto peggio che prendere fischi per fiaschi. Ma perché qua il problema è che qua siamo nella provincia brasiliana, che è come stare a Torvaianica d'inverno per chi conosce il litorale laziale, quindi noi abbiamo fame di persone, di notizie. Ieri siamo andati a Rio, sembravamo dei bambini perché abbiamo rivisto la gente, è stata una cosa clamorosa, una grande festa, pure a Volta Redonda saremmo rimasti 3 giorni perché c'era la gente, cosa che qui invece a Mangaratiba e dintorni è più facile che a un certo punto della giornata cominci a parlare con le palme. Ecco. Sì, no, ecco, è come andare in un villaggio turistico d'inverno, un villaggio turistico italiano in Calabria a gennaio, e quindi già tanto ci sono i camerieri. Quindi hai anche le allucinazioni, la chiatta è un sommergibile, uno che ti saluta è un manifestante, quindi perdonate. Figuriamoci, siamo solo all'inizio, figuriamoci alla fine. Dario, grazie. Buon lavoro, grazie a dopo. A voi. Ciao. Grazie a Dario Ricci. Antonio Capitani, abbiamo la borsa adesso. So se... Anche quella dipende dagli astri spesso. Borsa. Tutto molto bello. Convocati. Piccard finisce così con Ricciardo che vince il Gran Premio con questa immagine finale di questi leoni che hanno lottato davvero oggi, e Ricciardo in regime di safety car va a vincere la prima gara della sua storia in Formula 1. Sono tutti arrampicati i meccanici della Red Bull. Nobody al muretto. You're gonna win the race. Just stay positive on the Delta, mate. Tonio Capitani fa l'oroscopo alla Ferrari, impresa disperata. No, non si può fare. Soprassiedo. Leo Turrini, ciao Leo. Ciao, come va? Tutto bene? Io benissimo, e tu? Ma io sono qui in Brasile e ti posso dare un titolo subito, no? Vai. La Ferrari è come l'Italia, immobile. Ma grande! Visto che hai fatto sentire l'arrivo trionfale di Ricciardo, hai capito? Sì. Insomma. Io sono un grande tifoso di Ricky Ricciardo, mi è molto simpatico, va come una spia, sta bacchettando tutte le volte Vettel, sono felice che è stato lui a interrompere la tirannide di quegli altri due. Uno si è fatto fuori da solo, ha avuto dei problemi alla macchina, e quell'altro non è andato benissimo, cioè Rosberg. Quindi vince Ricky Ricciardo, sì, e io sono molto contento. Guarda, allora, ieri Hamilton ricordava un po' Balotelli nel finale contro la Fluminense, no? Sì. Ha avuto dei problemi sulla Mercedes, Rosberg ne ha approfittato, ma solo in parte. Sono d'accordo su quello che dicevi a proposito di Ricciardo, perché al di là dei suoi meriti al volante è davvero un personaggio nuovo, no? Se tu pensi un po' ai piloti dell'ultima generazione, da Alonso in poi, al di là delle loro qualità, sono sempre tutti un po' musoni, no? Sempre molto contratti, sembrano i calciatori qui al mondiale, hai capito? Allenamento a porte chiuse, queste cose, ti fanno vedere mezz'ora di palleggi, poi bisogna andarsene. Tra l'altro ti segnalo che il tuo amico Pardo è già completamente decomposto, e siamo soltanto al quinto giorno. Ma sai che adesso è tornato a casa, cioè è tornato qui perché deve fare tiki-taka dopodomani, e quindi praticamente c'è, cioè, chi fa il pendolare tra Milano e Busto Arsizio, lui lo fa tra Rio e Milano, capito? Beh, insomma, come diceva quel tale, sempre meglio che lavorare. Comunque, Ricciardo è sinceramente un personaggio fresco, ha questo sorriso stampato sul volto, ti trasmette un senso di allegria, e devo dire che sta sorprendendo soprattutto Vettel, ma anche noi osservatori, perché se vogliamo essere onesti, quando la Red Bull disse che al posto di Webber prendeva l'oriundo bisnipote di un pizzaiolo della campagna profonda emigrato in Australia, tutti dicevano: ma questi vogliono puntare sul one man show ancora, e semplicemente su Seb. E invece io direi l'impero bibitaro colpisce ancora, hai capito? Perché qualunque sia il futuro di Vettel, questi hanno in casa uno che va come una scheggia. Dopodiché consoliamoci, la Ferrari come l'Italia di Prandelli, sì, immobile. Il trattore rosso. Beh, adesso francamente credo che il pacchetto di sviluppo che era stato portato sulla F14T in Canada si è rivelato un pacco di risultati, no? La stagione è andata, l'avevamo già capito, devo dire, dalle primissime battute. Quello che ci spiace, sai, che ad esempio ieri, come tu ricordavi, la Mercedes per la prima volta nella stagione ha dei problemi o delle difficoltà. E i problemi e le difficoltà ce li abbiamo anche con i telefoni. Evidentemente. Tu segui la Formula 1, Antonio? Non particolarmente, no. Moto neanche? Meno. Calcio. Sì. Calcio. Solo pallone. Direi di sì. Io volevo chiedere ancora una cosa, Leo Turrini, vediamo se riusciamo a recuperarlo, perché c'è anche Massa che ieri mi ha fatto imbestialire. Ex ferrarista, però ieri con una macchina più veloce non è riuscito a superare Vettel, e poi ha pensato bene di sbattere fuori il povero Perez, che ha fatto una gara straordinaria. Dimmi una cosa, parlavamo prima di un paio di segni, uno dei quali è il cancro, dove ci sono diversi giocatori importanti, sì, nostri, Mirante, Aquilani, Cassano, e poi c'è Messi. Attenzione cancro e capricorno, perché io mi rifaccio a quello che diceva prima Dario in collegamento, sì, mi ha anticipato, perché stavo per dire che probabilmente cancro e capricorno con Marte contrario, Marte è il pianeta dei piccoli traumi, degli eventi accidentali, quindi cancro e capricorno potrebbero essere quelli forse più facilmente predisposti agli infortuni o alle mosse particolarmente rozze degli avversari. Quindi il calcio negli stinchi di ieri sera di Cassano, insomma, era scritto in Marte. Era scritto in Marte. E quindi, no, siccome questo Marte rompe gli zebedei ancora a lungo, sì, al cancro e al capricorno, quindi bisogna stare un po' attenti che questi giocatori, insomma, non... Anche Messi non sta benissimo, continua ad avere questi problemi, per cui sta male in campo, una cosa terrificante. No, io non potevo lasciare Leo Turrini senza dal Brasile, collegato dal Brasile, senza un suo commento sul brasiliano triste, cioè Massa, che ieri aveva la macchina più veloce del lotto in quel momento, ha tentato, ma senza nemmeno troppa convinzione, di superare Vettel, non ci ha riuscito, e poi ha sbattuto fuori Perez, mentre il Ricciardo di qui sopra, nel momento in cui ha detto ok, salto per sorpasso pazzesco e poi vado a prendere il finlandese, lo supero e vado a vincere. Massa, voto bassissimo secondo me. Beh, sai, tu sei molto severo, perché secondo me aderisci al partito degli anti Felipe, che io ho fondato ormai parecchi anni fa, devo dire onestamente. Ma c'è anche una coazione a ripetere del destino, si accanisce con una perversione contro questo figlio di San Paolo, perché sinceramente dell'episodio dell'incidente con Perez credo che la responsabilità sia più del messicano che passa. Dopodiché, sai, siamo sempre lì, io credo che se nella vita tutte le volte che ti si presenta un'occasione ti dice male, insomma, sarà anche la Iella, certamente, sarà anche appunto una congiunzione astrale negativa, un segno zodiacale sfavorevole, però forse tu ci metti anche del tuo. Come vogliamo dire, ma secondo me è un eroe romantico, sai, quei personaggi destinati alla sconfitta, no? Sì. Leopardiano, io sol procomberò sol io, no? Ecco, una cosa del genere, ecco, una roba così. Però un bravissimo ragazzo, come si fa a non volergli bene, hai capito? Un po' come si fa a non voler bene a gente, ma non mai ancora detto come vedi gli azzurri, tu che li vedi meglio di noi da lontano, perché della rossa dobbiamo parlare, come li vedi? Va benissimo, io sono ottimista di natura, cioè non condivido tutto quel pessimismo cupo che dobbiamo tirarci addosso, come diceva prima Antonio Gavitani, che pure chiama la sfiga, non condivido questo pessimismo cupissimo che dobbiamo per forza sorbirci tutte le volte che andiamo a un mondiale o a un europeo, cioè sempre gli altri che dicono vabbè, noi giochiamo per vincere, brasiliani figurati, ma anche gli altri, insomma, vanno lì come si deve andare, per noi invece ogni volta è una sofferenza. E scrive, guarda Leo, ti vendo questa, Albano da Trieste, Churchill, ma la sai, Churchill disse che gli italiani perdono una guerra come fosse una partita di calcio e perdono una partita di calcio come fosse una guerra, questa è la sappiamo, la abbiamo tutti. È che noi in Italia abbiamo un'idea del calcio come un'agonia, no? Esatto, bravo, cioè, per noi, un'agonia, per noi la partita è un'agonia, noi non riusciamo mai a godercela, nemmeno se stiamo avanti 3-0, cioè, il calcio è uno spasmo infinito, hai capito? Io sono sicuro che qualunque cosa accada contro l'Inghilterra, prima di andare a affrontare la fortissima Costa Rica, no? Noi ci faremo dei sul fatto che la Costa Rica ci ricorda le due cose, che qui, che là, che su, che giù, che sopra, che sotto, che siamo nel panico, hai capito? Certo. Che Prandelli è andato in confusione. Cioè, ci vorrebbe questo indubbiamente, un approccio, come dire, molto, molto, molto più distaccato, però è impossibile, io vedo anche qui, hai capito? Sì, beh, ma d'altronde siamo il paese che ha inventato il melodramma, no? Ma certo, bravo, sempre... bravissimo, infatti quindi... io a proposito vorrei fare una citazione, andiamo a Manaus contro l'Inghilterra, dove, come l'amico che sta interloquendo con noi ben sa, a suo tempo fecero costruire un teatro lirico a Manaus, no? In mezzo all'inferno verde, no? C'è fatto anche un film, Fitzcarraldo, no? Qualcuno pensò di costruire nel cuore dell'Amazzonia un tempio dedicato alle liriche verdiane, e del resto ve ne dirò un'altra, non lo sa nessuno, ma nel cuore dell'Amazzonia anni fa hanno trovato una Ferrari rarissima. Ma dai. Io sono, non quella di Alonso Raikkonen di adesso, che non l'avrebbe voluta nessuno, che Dio solo sa come fosse finita lì, era stata acquistata evidentemente da un magnate brasiliano, il quale poi forse si era perso con delle zattere lungo il rio delle Amazzoni, no? E trovarono in un fraschetto una Ferrari abbandonata, hai capito? i simboli dell'Italia. Prima c'era la Ferrari abbandonata, adesso portiamo lì il Balotelli abbandonato. Perché con questo immobile come ci fa? Giro. La Ferrari è come immobile, cioè com'era, com'era, no, la storia? L'Italia è come l'Italia dei fratelli, immobile. Il titolo della puntata è questo qua. Leo Turini, ti ringrazio, ti abbraccio e tornerò a trovarti. Grazie in Brasile. Voi, mi raccomando, non farmi preoccupare. Non farmi preoccupare. A tutti, a presto, ciao Leo. Antonio Capitani, abbiamo il traffico, poi torniamo. Prego. C'è il traffico, come diceva quel famoso spot, non si interrompe così un'emozione, hai capito? Tutti convocati. Allora, prima di andare da Alberto, che è il migliore della settimana, far sentire il suo intervento con cui... Alberto, ma vieni qui a prendere la maglietta o no? Sì, vieni qui, eccoci, vieni qui a prendere la maglietta. Ciao Carlo. Ciao. Ma penso di sì, penso di sì. Io ti aspetto, ti aspetto perché... ricordiamo che insomma una maglietta al giorno di tutti i convocati, poi la diamo anche ad Antonio Capitani, per il migliore in campo tutti i giorni, e poi perché ci invia un Final MP3 con un suo commento personale su un fatto della settimana, ebbene il migliore ha una, così, un plus, può venire a ritirare qui maglietta autografata eccetera eccetera. A proposito, questa settimana trovate tutto su www.radio24.it. Diteci la vostra su pronostico mondiale. Beh, facile, no? Come andrà il mondiale per l'Italia e per le altre? Invece, io prima di parlare con Alberto, volevo con Antonio Capitani chiudere il discorso Formula 1. Vettel e Massa. Sì, Vettel, un 3 luglio, un cancro che è stato legnato da pianeti piuttosto importanti. Avevo scritto e detto cose, ahimè, non belle. E Massa è un toro con Saturno opposto, il famoso Saturno contro, che è proprio il simbolo anche dell'immobilità, quindi prima parlavamo di immobilità, quindi Saturno frena, Saturno priva. Però Saturno non è un gran segno per un pilota? No, non sarebbe neanche male come segno, è che è proprio la situazione contingente da qualche tempo che non è delle forze più promettenti. Mentre su Vettel, cosa avevi scritto? Che l'ho scritto perché è nato il 3 luglio come me, e quindi avevo scritto che c'erano effettivamente dei momenti non semplici da affrontare, dei ridimensionamenti, delle cose che io credo non siano neanche del tutto finiti. Dopo aver vinto una fila di mondiali come quelle che ha vinto, meno male che anche quelle parabole hanno comunque una fase discendente, anche, no? Giustamente, se no ci annoiamo tutti mortalmente. Sentiamo cosa ci ha detto Alberto. Tutti convocati, sarebbe bello poterlo essere davvero tutti, anche nella nazionale di calcio, così una parte di polemiche potrebbero essere eliminate. Ma non è possibile, e allora gli assenti hanno sempre ragione, come i buoni in una celebre canzone di Edoardo Bennato. Ma mi domando, i citi della nazionale sono fessi oppure seguono le loro idee onestamente, così come deve essere? Lippi non portò Balotelli e Cassano e si espose a critiche feroci non seguendo l'onda popolare. E ora Prandelli commette lo stesso errore, non convoca per Tito Rossi rischiando il linciaggio mediatico se appena l'Italia non dovesse arrivare almeno ai quarti. Forse c'è un senso di masochismo latente nei nostri commissari tecnici, ma io credo piuttosto che sia semplicemente onestà intellettuale, che tutti predichiamo e che loro hanno il coraggio di avere. Prandelli ha fatto le sue scelte, impopolari ma onestamente, senza farsi condizionare, e di questo gli va dato atto. Speriamo abbia ragione lui e che l'Italia possa farci sognare. I gufi o nemici ci sono sempre stati e ci saranno sempre. Prandelli ha dimostrato fin qui di non averne paura. Vabbè, poi vediamo come va. Come va Alberto, secondo lei? Secondo me sì. Sì, nella nazionale dici? Sì. La nazionale penso che bene che vada possa arrivare in semifinale. Beh, no, semifinale. Sono già abbastanza fiducioso, io sono già fiducioso, spero che possa arrivare. Io voglio avere fiducia, insomma, voglio fondare il partito della fiducia premondiale. Poi facciamo sempre in tempo a arrabbiarci come di ieri. No, ma sì. Ma perché la verità è questa, Antonio Capitani. Alberto, allora ti aspetto a prendere la maglietta, eh? Ti aspetto qui, così chiacchieriamo insieme per una puntata intera di tutti i convocati. Sai qual è la verità? È questa che scrive un ascoltatore. Lo facciamo, cioè viviamo in questa maniera perché nel 1982 portammo sfiga e ci andò di lusso, per cui pensiamo che ad ogni mondiale ci tocca tifare contro per poi vincere. Scaramanzia. Abbiamo bisogno di questo pensiero perché ci ha portato fortuna, anche nel 70, no? La nazionale è partita tra un uragano di polemiche, nel 78 pure, 82 anche. figura 2006 con Moggi che era, e l'impero del mare, queste cose qui, no? Quindi abbiamo bisogno di questa carica, di questa carica di ma non credo, sai, che debba partire dalla scaramanzia, però secondo me si può essere gioiosi fin dall'inizio, il simile attira il simile, vale. E la gioia attira altra gioia. Io perché ricorrere alla scaramanzia e cominciare a gufare? No, ma perché abbiamo bisogno, cioè se arriviamo lì troppo sorridenti, vinciamo amichevole 4-0, sì, ma poi diventa una tradizione più che qualcosa. Enrico, mi sbaglio? Enrico da Padova? Sì, mi sbaglio? Ma, mister, ma proprio capitani dovevate invitare oggi. Mannaggia, perché? Guarda. Perché sono del cancro, stasera c'ho la partitella con gli amici. Porca miseria. Vabbè, no, vai, ma insomma, non tutti i cancro ricevono le legnate di Marte, insomma. Abbiamo anche... piscina allora stasera. Piscina? Meglio. Ma insomma, il nuoto, visto che siamo un segno d'acqua, ci fa anche bene. No, Enrico gioca a calcio. Ma no, ma stai calcio a 11, nonostante i 50 anni. Sì, ma sei un giovane. Lo vero. No, a calcio, come Messi, come Mirante, Aquilani, Cassano, Guarini. Un po' meglio. Un po' meglio, da fermo, un po' meglio. Come vanno i mondiali? Ma i mondiali, allora, io volevo fargli una domanda. Dimmi. C'era un terzino dell'Honduras su cui abbiamo perso 15 giorni, dovevamo bloccarlo, cos'era, nei mondiali in Corea? Sì, dell'Ecuador, terzino dell'Ecuador. Che giocava in Scozia in Serie B. Sì, me lo ricordo, sì, che ci hanno fatto una testa così. Abbiamo perso 15 giorni, dove vogliamo andare? Cioè, come opinione pubblica, se perdiamo la testa sulla Serie B sorpresa. Ma no, ma siamo così, abbiamo bisogno di avere paura, cioè abbiamo bisogno di essere terrorizzati da qualcosa, non c'è niente da fare. Senti questo, Antonio, poi salutiamo tutti quanti. La sofferenza è propria della Vergine, ma ce l'hanno un segno zodiacale le nazionali? Come no? Ma sai, si fa riferimento più al segno zodiacale del paese che viene rappresentato dalla nazionale. Noi in Italia, per esempio, abbiamo un tema natale, per parlare in astrologhese, calcolato per il momento della proclamazione della Repubblica, che vede l'Italia gemelli ascendente Scorpione. Quindi bisogna andare a recuperare appunto i dati di nascita di ogni nazione per quando è stata proclamata quella forma particolare di governo, la carta della Costituzione. Ci sono dei criteri che possono attribuire un segno alle nazionali, questo sì. Allora facciamo così, nel corso dei mondiali facciamo qualche altra lettura astrale. Ma con piacere, volentieri. Migliore in campo di oggi, Marco, buongiorno. Buongiorno, grazie della convocazione, la saluto e un saluto al simpaticissimo Pardo. Certo. Ma niente, io non le dirò che vorrei che giocassero il Signe Immobile. Però dico che Prandelli in una bella botte di ferro adesso, dopo la partita di ieri sera. Solo che c'è 40 milioni di commissari tecnici che siamo noi italiani, i frequentatori dei bar, che siamo pronti ad accendergli il fuoco sotto nel caso che dovesse fare scelte sbagliate. Ma io a questo punto credo che se il mister Mondonico prima sia stato di una chiarezza, il gioco che deve fare Prandelli è quello lì. Adesso io Insigne Immobile ieri sera non so se il Fluminense fosse una squadra valida o non valida, cioè, sono venuti i gol, speriamo che comunque le cartucce non le abbia sparate tutte ieri sera, ecco, tutto lì. Certo che Prandelli adesso si trova un bel problema, un bel dilemma. Vabbè, con buona pace del mitico Ulises de la Cruz, che questo era il nome del terzino che ci ha fatto perdere il sonno, giocava nell'Ecuador, poi ovviamente non abbiamo mai più sentito parlare. Ringrazio Antonio Capitani. Grazie a voi, grazie Antonio di tutto, dell'ospite sulla Gazzetta che mi, insomma, grazie a voi, dando che mi un leggete. Senso alla mattina. Così mi tengono, quindi grazie. Franco Piantarini, autore di questo programma, Claudio Scattone, redazione, e Roberto Scaltritti, regia. Ciao ragazzi, ci sentiamo domani. Domani alle 2, dopo GR delle 2. Ciao.